E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo. Focus Economia. Buonasera gentili ascoltatori e benvenuti a questa nuova puntata di Focus Economia, oggi lunedì 23 agosto. Parleremo anche noi, come ha fatto il giornale radio poco fa, di Fiat in questa puntata. Sicuramente sul fronte di quel che è successo a Melfi, ossia, insomma, il racconto lo avete sentito poco fa, la questione del reintegro dei tre operai e quindi una sorta di tensione che sembra accentuarsi tra l'azienda e il sindacato, in particolare la FIOM, ma ne parleremo anche perché oggi domina la giornata in qualche misura la dichiarazione del ministro del welfare Maurizio Sacconi, che parla della necessità di una partecipazione dei lavoratori, magari, perché no, azionaria, nel gruppo, insomma, per coinvolgerli di più. Ne aveva parlato tra l'altro ieri anche il leader della CISL, Raffaele Bonanni. Riascolteremo la sua voce, così come sentiremo la voce del ministro Sacconi, e poi ascolteremo il parere del professor Pietro Ichino, ce lo avremo in diretta. E parleremo di Fiat anche perché, pur smentite da Torino poco fa, sono tornate a circolare indiscrezioni di un interessamento di Volkswagen su Alfa Romeo. Appunto, si diceva, indiscrezioni già smentite da Lingotto. E però Volkswagen era già tentata qualche anno fa dall'acquisizione di Alfa Romeo. E poi andremo al meeting di Comunione e Liberazione a Rimini, sentiremo che cosa ha detto ieri l'amministratore delegato di Intesa San Paolo, Corrado Passera. Si è soffermato sui temi della crescita e poi ha fatto anche una valutazione interessante per quel che riguarda il grande tema di questi ultimi due anni, ossia il credito che le banche concedono alle piccole e soprattutto alle piccole e medie imprese, facendo notare anche che, sì, certo, Basilea 3, il famoso accordo di Basilea 3, che imporrà dei criteri patrimoniali più stringenti alle banche e quindi costringerà forse a stringere un pochino i cordoni delle borse, dice, potrebbe essere anche una grande opportunità, perché le aziende potrebbero decidersi, soprattutto le piccole e medie, a presentare alle banche per ottenere del credito al di là della questione dei ricavi, insomma al di là dei risultati economici, che chiaramente in quest'ultimo periodo non è che possano essere stati grandiosi, dei piani un pochino più completi, insomma, capire un attimo, far capire meglio alla banca qual è il futuro dell'azienda, ammesso naturalmente che poi in banca si trovino persone disposte ad ascoltare. Questa è la grande sfida per le banche, naturalmente, oltre che c'è una sfida per le piccole e medie imprese. Nella giornata nella quale i mercati sono in linea di massima positivi, anzi si stanno rafforzando in quest'ultima fase, il FTSE All Share guadagna lo 0,67%, altrettanto fa il FTSE MIB, confortate le piazze finanziarie anche da un andamento di Wall Street che era positivo, almeno in partenza, e poi adesso siamo più o meno a ridosso della parità, un calo dello 0,03% sul Dow Jones, mentre l'euro continua a quotare ampiamente sotto gli 1,30-1,26. Questo il quadro della giornata, adesso le notizie in breve. Iniziando come facciamo sempre dal petrolio, che apre in rialzo a New York, più 0,6% a $74,26 al barile. Si diceva di Wall Street. Wall Street era partita bene anche perché sembra che circoli una tendenza sempre maggiore alla cosiddetta merger and acquisition, ossia alle acquisizioni, alle fusioni e acquisizioni di società. Naturalmente vi abbiamo raccontato venerdì, Sebastiano Barisoni vi ha raccontato venerdì della vicenda di Potash, il colosso dei fertilizzanti, sul quale c'è un'offerta da parte di BHP, che è un colosso colosso minerario, invece un'offerta ostile, un'offerta pubblica di acquisto ostile a $130 ad azione, da $39 miliardi nel complesso. A quanto pare Potash, anzi a quanto pare, lo ha detto proprio in un comunicato, sta trattando con altre parti contro questa offerta. Tra l'altro, ci sarebbe tra queste parti un consorzio guidato dal fondo di private equity cinese Hopu. Questa è una notizia diffusa da Wall Street Journal. E poi ancora, HP Hewlett Packard offre $1.6 miliardi per tripare battaglia con Dell. HP ha messo sul piatto appunto $1.6 miliardi per rilevare l'azienda californiana che è specializzata in prodotti virtuali di data management, ossia prodotti che aiutano le imprese a ridurre i costi energetici legati all'archiviazione di informazioni. L'offerta è pari a $33 per azione, l'offerta di Dell era di $18 per azione. E quindi anche questa sorta di febbre dell'M&A, della merger and acquisition, favorita anche ai tassi di interesse bassi, che ha spinto almeno inizialmente al rialzo Wall Street. Siamo all'Europa. C'è un dato diffuso questa mattina da Eurostat, ossia la fiducia dei consumatori nella zona euro in agosto, migliorata, anche se negativa, all'11 di un meno 11,7 punti dai meno 14 di luglio. Dato tra l'altro migliore delle attese degli analisti. C'è da segnalare anche quel che dice Moody's oggi, ossia che le misure di rigore fiscale decise da alcuni paesi in Europa pesano sulla crescita a breve termine, quindi sul rating sovrano di alcuni paesi. E aggiunge Moody's, le deboli prospettive di crescita hanno rappresentato una spinta importante per la decisione di declassare i rating di Grecia, Portogallo, Spagna, Irlanda e di recente Ungheria. Sempre dall'Europa, la Banca Centrale Europea drenerà domani €60,5 miliardi di euro di liquidità per sterilizzare gli effetti monetari degli acquisti di titoli di Stato, effettuati alla data del 20 agosto. La comunicazione è della stessa BCE. C'è interessante un calcolo effettuato dal Financial Times sulle buste paga dei banchieri al timone delle prime 17 banche occidentali. Si parla di Europa e Stati Uniti, quindi. Sono calate del 57%, da una media di $14 milioni nel 2008 a una di $6 milioni nel 2009. Sono due top manager del settore bancario italiano citati dal quotidiano, li potete immaginare naturalmente, il consigliere delegato Intesa San Paolo Corrado Passera e l'amministratore delegato di Unicredit Alessandro Profumo. La busta paga del primo è aumentata del 18%, quella del numero uno di Unicredit è scesa del 62%. Tra i vincitori del 2009 spiccano Josef Ackermann di Deutsche Bank e Brady Dogan di Credit Suisse. Si diceva delle piccole e medie imprese, continua l'espansione del manifatturiero e dei servizi in Eurolandia, anche se si amplia il divario fra la crescita delle economie più forti, Francia e Germania, e quelle più piccole e toccate dalla crisi, è quanto emerge dalla stima flash dell'indice PMI, dei Purchasing Managers Index, ossia i direttori acquisti, calcolato da Market per Reuters. Mostra un'espansione dei servizi a 55,6 rispetto al 55,4 atteso dagli analisti. Infine, sul fronte dell'economia italiana ci sono i dati diffusi oggi dalla Confcommercio, secondo la quale il prodotto interno lordo nel 2010 crescerà dello 0,7% e dell'1% nel 2011. La previsione segnala come sia anche cresciuta negli anni la quota di ricchezza prodotta dal centro del paese, mentre si riduce quella prodotta dal nord-ovest. Infine vi diamo un altro dato, quello diffuso dalla UIL, e tra un attimo parleremo di lavoro, ossia che le ore autorizzate di cassa integrazione a luglio 2010 sono oltre 115 milioni e da quando la crisi è esplosa questo mese si colloca al quinto posto per quantità. Le ore autorizzate crescono di quasi il 10%, il 19° rapporto della UIL sulla cassa integrazione. E ora cambiamo argomento e parliamo di Fiat. La vicenda l'avete sentita nel giornale radio, brevemente ve la riassumiamo. Lo scorso luglio Fiat ha licenziato 3 operai dello stabilimento di Melfi che durante un corteo interno avevano bloccato un carrello, di fatto fermando la produzione. Il 10 agosto il giudice ha reintegrato i 3 operai, ravvisando nella decisione di Fiat un comportamento antisindacale, e Fiat ricorre contro il reintegro. In attesa della pronuncia ha invitato con un telegramma i 3 operai nel fine settimana a non recarsi in fabbrica, pur essendo disposta a pagare loro lo stipendio. Era previsto che i 3 operai, Giovanni Barozzino, Antonio Lamorta e Marco Pignatelli, entrassero oggi in fabbrica nel turno delle 14. Ebbene, in fabbrica ci sono entrati, sono andati negli uffici e l'azienda ha detto che li autorizza a svolgere attività sindacale, ma non a lavorare nella fabbrica. La FIOM si dice pronta alla denuncia penale. L'avvocato della FIOM dice che la retribuzione non equivale al reintegro disposto dal giudice e gli operai si appellano a Napolitano. Enzo Masini, responsabile auto della FIOM, racconta al microfono di Gennaro Grimolizzi che cosa è successo là dentro. La Fiat si rifiuta di dare attuazione al decreto del giudice di Melfi, poiché non intende reintegrare lavoratori sul posto di lavoro, mentre li farebbe accedere solo alla salita sindacale. Ma questo non significa niente, perché quello che ha detto il giudice la reintegra al proprio posto di lavoro. Le prossime azioni che intenderete contro la Fiat? Ma noi ricorreremo immediatamente con una denuncia penale nei confronti della Fiat e ci rivolgeremo anche al Presidente della Repubblica. Nello stesso tempo chiediamo a tutte le organizzazioni sindacali di promuovere l'assemblea retribuita dei lavoratori su tutti e 3 i turni della SAP. Intendete coinvolgere anche gli altri 2 sindacati? Assolutamente sì, pensiamo che quando c'è in gioco un problema di libertà sindacale può toccare una volta un'organizzazione sindacale, una volta un'altra, ma è un problema di tutti. Come sarà coinvolto il Presidente della Repubblica? Attraverso una lettera dei 3 lavoratori licenziati chiedendo il suo intervento, perché siamo di fronte a una palese violazione anche della Carta Costituzionale del diritto al lavoro. Già ci scrive via SMS un ascoltatore: un'azienda italiana non può pensare di essere fuori dalla legge, un ordine del giudice va rispettato. Saluto Pietro Ichino, uno dei più apprezzati giuslavoristi italiani, docente di diritto del lavoro all'Università Statale di Milano e senatore del Partito Democratico. Buonasera professor Ichino. Buonasera a tutti e tutte le ascoltatrici. Allora, io le chiedo innanzitutto, poi verremo al tema che poi è stato anche il tema del suo articolo, dell'articolo che pubblica oggi sul Corriere della Sera, ossia quanto questa mossa effettivamente giovi alla Fiat, insomma il fatto di non, come dire, di non volere in fabbrica questi 3 operai, insomma questo scontro che si fa un pochino più duro. Io però prima le vorrei chiedere a questo punto, in punta di dire, se secondo lei poi per carità la parte giudiziaria farà il suo corso, una sua opinione se in punta di diritto l'azienda ha ragione oppure no? Occorre distinguere la questione sostanziale della giustificazione dei licenziamenti, che è ancora tutta da discutere e da decidere, perché il provvedimento del Tribunale di Melfi è un provvedimento puramente provvisorio, d'urgenza, che si basa su un'istruttoria sommaria, all'esito della quale il giudice ha ritenuto che non fosse dimostrata la volontarietà del blocco dei carrelli. Però il giudice stesso dice su questo dovrà svolgersi poi un'istruttoria compiuta, però nel frattempo il giudice ordina all'azienda di reintegrare i lavoratori nel loro posto. L'azienda ottempera questo ordine del giudice in modo, io ritengo, sbagliato in quanto parziale. L'azienda dice: poiché qui il giudice vuole tutelare il diritto all'attività sindacale, io consento a questi sindacalisti di entrare in fabbrica e svolgere attività sindacale, ma non consento loro di riprendere il lavoro, e l'azienda dice: io con questo ottempero l'ordine del giudice. In realtà, secondo me, se mi si chiede un parere pro veritate, diciamo così, l'ottemperanza è solo parziale, perché la reintegrazione nel posto di lavoro implica anche la ripresa dello svolgimento delle mansioni e il lasciare i lavoratori fuori dal reparto dove si produce in qualche modo lede quel principio di reintegrazione integrale nel posto di lavoro che invece l'ordinanza intendeva tutelare. Quindi secondo me la Fiat qui non sta rispettando l'ordinanza del giudice, anche se tutto è discutibile. Sì, sì, naturalmente. La sua posizione certo, in giudizio. Certo, no, ecco, naturalmente. Ma al di là di questo io mi chiedo che perché la Fiat abbia voluto radicalizzare questa vicenda con anche questo elemento appunto di ulteriore acutizzazione della tensione, quando in fondo sarebbe stato, mi sembra, interesse della Fiat di non distogliere l'attenzione dell'opinione pubblica dalle questioni cruciali e molto rilevanti poste dal suo amministratore delegato Marchionne all'Italia nel momento in cui ha proposto il suo piano industriale e ha messo in evidenza i difetti di funzionamento del nostro sistema di relazioni industriali. Questa vicenda di Melfi rischia di distogliere l'attenzione dell'opinione pubblica da queste questioni centrali su cui è necessario pensamento. Sì, che sono, professore, quelle veramente centrali, nel senso che l'impressione è che la Fiat stia Marchionne, la Fiat guidata da Marchionne stia tentando nei fatti di rivoluzionare il sistema di relazioni sindacali di questo paese. Sì, e direi il merito, io lo considero proprio un merito di Marchionne, quello di aver fatto quello che le altre multinazionali non fanno. Quando le altre multinazionali si tengono alla larga dal nostro paese e rifiutano di investire da noi, mica ci vengono a dire perché, il perché di questa loro scelta, ma questo è il dato di fatto. L'Italia è il fanalino di coda in Europa per capacità di intercettare gli investimenti nel mercato globale dei capitali e questa è una delle cause più gravi del nostro difetto di crescita, della nostra incapacità di crescita. E questo poi si ritorce pesantemente contro i lavoratori perché vuol dire meno domanda di lavoro, meno innovazione, meno quindi produttività del lavoro, quindi minori retribuzioni. Ora, noi dobbiamo curare questo male oscuro del nostro paese e la leva più facile da manovrare per ritornare a crescere è riaprire il nostro sistema agli investimenti stranieri. Marchionne ci fa un servizio che può apparire ruvido nella forma, ma è molto prezioso nella sostanza, cioè ci dice attenzione perché il diritto del lavoro italiano è illeggibile sostanzialmente, presenta dei difetti di trasparenza gravi e il nostro, perché lui è italiano come noi, il nostro sistema di relazioni industriali ha un difetto gravissimo e cioè quello per cui in un regime di pluralismo sindacale, quindi in un regime in cui è naturale che si presentino dei dissensi tra sindacati, un sindacato minoritario è in grado di porre un veto su un piano industriale innovativo. Questo potere di veto fa sì che o c'è il consenso di tutti, tutti almeno i maggiori sindacati, oppure il piano industriale innovativo non ha diritto di cittadinanza, non ha modo di attecchire, soprattutto la grande multinazionale non ha interesse a rischiare i propri soldi, il proprio investimento in una situazione in cui c'è questa incertezza sulla effettività delle clausole pattuite. È certo. Quindi, come dire, l'obiettivo di Marchionne è sgombrare il campo, far chiarezza e in questo, per la sua azienda, naturalmente per l'azienda che guida, perché poi alla fine l'obiettivo di un'azienda è sempre quello, insomma, far quattrini. Poi ci sarà anche un'utilità sociale in questo, insomma, posti di lavoro, quel che vogliamo, però poi, insomma, alla fine l'obiettivo è quello, lo fa per sé, ma in realtà rende un servizio al paese. La riporto in punta di diritto, professore, perché ci chiede un ascoltatore via SMS al 349 238 6666, dice: ma se la Fiat crede nel sabotaggio dei tre e li ha licenziati, perché oggi dovrebbe fidarsi di loro? E questo è un vecchio tema anche caro a molti imprenditori, insomma, dicono è la mia azienda, ho il diritto di non avere dentro questa azienda delle persone che io ritengo dannose per la produzione. Ma diciamo che qui l'accusa non è di sabotaggio, che sarebbe un'accusa molto più grave e sposterebbe il discorso su un piano diverso. L'accusa è di aver nel corso di uno sciopero proclamato dalla FIOM, a cui aderiva soltanto una parte dei lavoratori, aver tentato con il blocco di questi carrelli di impedire il lavoro anche degli altri che invece allo sciopero non avevano aderito. Sì, è chiaro, però era un po' il tema più generale, professore, insomma, quello che le dicevo. Però, diciamo, in uno stato di diritto gli ordini del giudice, soprattutto in un caso di questo genere, un'ordinanza d'urgenza, devono essere ottemperati. Farsi giustizia da sé non è consentito. Poi si può discutere delle regole che stanno dietro a queste ordinanze e queste sentenze. Io credo che queste regole meritino di essere riviste, non tanto la regola che diciamo vieta il comportamento antisindacale, perché questa è una regola che tra l'altro ci accomuna a tutti gli altri ordinamenti dell'Occidente industrializzato, ma la disciplina dei licenziamenti in generale. Ma non è questo il punto. Le leggi, finché ci sono, vanno applicate. La Fiat ha tutto il diritto di avvertirci: guardate che questo vostro ordinamento di relazioni industriali è difettoso, perché consentendo la conflittualità permanente, consente a un sindacato minoritario di esercitare un potere di veto anche contro la maggioranza dei lavoratori, quindi l'interesse dei lavoratori così come essi lo hanno interpretato. Questo è vero. Oggi in Italia noi abbiamo un ordinamento che sostanzialmente non attribuisce alla clausola di tregua stipulata dal sindacato con l'imprenditore un effetto vincolante nei confronti dei singoli lavoratori, e quindi la clausola di tregua vincola solo il sindacato che l'ha stipulata, ma il giorno dopo la sua stipulazione, anche se il contratto viene applicato a tutti i lavoratori e tutti i lavoratori ne beneficiano, però tutti i lavoratori possono aderire allo sciopero proclamato anche da un comitato di base che rappresenta lo 0,1% dei lavoratori dell'azienda. Nel caso di Pomigliano d'Arco, i COBAS hanno proclamato uno sciopero dello straordinario permanente fino al 2014, uno sciopero che consente a legislazione invariata a qualsiasi lavoratore di Pomigliano di rifiutare lo straordinario. Questo contrasta con lo stesso accordo. Che prevede invece un certo numero di ore di lavoro con lo stesso accordo obbligatorie per realizzare lo 18° turno. Sì, cioè, con lo stesso accordo di Pomigliano. Allora, professore, prima di chiudere con lei, cambiamo un attimo argomento, rimanendo sempre sul tema Fiat, perché oggi, come si diceva, un altro tema si è imposto all'attenzione. Sempre dal meeting di Comunione e Liberazione di Rimini hanno parlato Raffaele Bonanni e il ministro Sacconi. Il tema è la partecipazione dei lavoratori all'impresa, perché poi anche questo fa parte del gioco, ossia se si riescono a coinvolgere i lavoratori in un altro modo, in un'altra maniera, per esempio la partecipazione appunto azionaria, tanto per dare un'idea, insomma, magari anche la conflittualità si riduce. Dunque, sentiamo Bonanni e Raffaele Bonanni, della CISL, che fa un paragone con l'America. Noi riteniamo che almeno nelle grandi aziende, anche nelle grandi banche, questa vicenda deve evolversi, e nelle grandi aziende deve evolversi. Marchionne, come la giustifica? Noi che siamo in Europa, con la cultura sociale che abbiamo e con la vicinanza al sistema partecipativo tedesco e così via, e con le indicazioni dell'ORE e così via, abbiamo ancora una condizione non di pienezza di partecipazione. E a Detroit, per esempio, i lavoratori sì, se la sono pagata la partecipazione, perché hanno impegnato i loro fondi pensioni, hanno impegnato i loro diritti. E a Detroit, nella stessa azienda, in un punto strategico della produzione dell'auto, c'è partecipazione. Questa è la sfida. Uomini lungimiranti e uomini coraggiosi su questo devono impegnarsi. Questo dunque il leader della CISL, Raffaele Bonanni. Sentiamo il ministro del welfare, Maurizio Sacconi. Meno Stato più società significa per esempio Pomigliano, significa un grande investimento che si realizza non con l'incentivo pubblico ma con l'incentivo realizzato dalla disponibilità dei lavoratori a una maggiore produttività del lavoro, e quindi questi lavoratori acquisiscono anche il titolo, a mio avviso, a condividere un domani i risultati delle loro fatiche, non solo in termini di salario fisso contrattuale ma anche in termini di salario collegato ai risultati dell'attività aziendale. Sì, anche se questo è un discorso lievemente diverso rispetto alla partecipazione appunto dei lavoratori. Professor Ichino, due modi, abbiamo sentito due versioni diverse in fondo della stessa cosa, cioè il modo per far partecipare agli utili dell'azienda o come partecipazione azionaria o semplicemente col famoso salario di produttività, se così vogliamo chiamarlo, i lavoratori. Può essere quello un modo per disinnescare la tensione? Forme di partecipazione ce ne sono anche molte altre, e il disegno di legge di cui sono il materiale estensore alla Commissione Lavoro del Senato e sul quale abbiamo raggiunto un consenso quasi unanime dell'intera Commissione, quindi maggioranza e opposizione, ne prevede 9 forme di modelli diversi di partecipazione, con l'idea di non imporne nessuno, ma di promuovere un confronto e anche una competizione fra modelli diversi, lasciando che sia il contratto aziendale a dare vita alla soluzione più adatta alle singole situazioni, o anche consentire che dove invece non ci sono le condizioni di fiducia reciproca e soprattutto di fiducia dei lavoratori nell'affidabilità del piano industriale e dell'imprenditore che lo propone, non si crei nessun elemento di partecipazione al rischio della produzione o del reddito aziendale e quindi non si faccia luogo ad alcun esperimento. È necessario promuovere questo confronto, questa competizione tra modelli diversi, e questo può essere anche favorito da misure fiscali che agevolino alcune forme di premi di produzione, utilizzazione anche della partecipazione azionaria dei lavoratori o altre ancora. Questo disegno di legge è fermo al Senato da un anno perché il ministro del Lavoro Sacconi ha chiesto un anno di riflessione e di raccolta, censimento delle esperienze in proposito. L'anno è passato perché questa sospensione è stata deliberata alla fine di agosto dell'anno scorso, e quindi oggi è auspicabile che questo disegno di legge riprenda il cammino, e credo che possa essere un aiuto a, più che altro, a creare una situazione in cui si crei spazio per la scommessa comune tra lavoratori e imprenditore sul piano industriale più innovativo. Questa scommessa comune presuppone che i lavoratori diano, attraverso la loro intelligenza collettiva, che è il sindacato, diano un giudizio positivo sul piano industriale innovativo e anche sulla affidabilità tecnica e etica di chi propone questo piano. Ma dove questa valutazione positiva viene data, è bene che la scommessa comune possa essere stipulata e che poi i frutti della scommessa, quando la scommessa viene vinta, vengano ripartiti tra tutti. Tra tutti. Questa è la chiave per favorire l'innovazione e porta maggiore produttività e quindi anche maggiori redditi, maggiore retribuzione del lavoro. Questo in Italia avviene ancora molto meno di quanto avvenga negli altri paesi, grandi paesi industrializzati, e quindi dobbiamo anche qui recuperare del terreno rispetto ai nostri concorrenti. Fare certo qualche passo avanti. Benissimo, io la ringrazio il professor Ichino per averci concesso il suo tempo, docente di diritto del lavoro all'Università Statale di Milano, senatore del Partito Democratico. Grazie professore, buonasera. Grazie a voi, buona serata a tutti. Mi sembra che a Joe da Milano abbia ampiamente risposto il professore. Dice che senso ha coinvolgere i lavoratori nell'impresa, così facendo si sminuisce il ruolo dell'imprenditore, che diluisce il rischio di impresa. In realtà non è questo, il far partecipare insomma, è un modo anche per, se vogliamo, dare una retribuzione maggiore nel momento nel quale l'azienda funziona, ovviamente. È il momento dei mercati. Eleonora Micheli, Radio Cuore, Il Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a tutti. Allora, nonostante dopo la fiammata iniziale l'America abbia virato in negativo, in questo momento appena sotto la parità, il Dow Jones cede lo 0,05%, il Nikkei, lo Standard & Poor's lo 0,06% e il Nasdaq circa mezzo punto percentuale, lo 0,6%, in realtà l'Europa è andata bene. Esatto, è andata bene anche se ha chiuso sotto i massimi, il bilancio comunque è positivo, evidentemente le borse europee hanno avuto voglia di riscattarsi dai cali e dai ribassi della scorsa settimana, anche se quando Wall Street ha imboccato la strada del ribasso ovviamente gli indici europei hanno notevolmente frenato, hanno dimezzato i guadagni rispetto invece ai rialzi di metà pomeriggio. Questo per quanto riguarda il discorso generale. Complessivamente, e in Italia succede sempre quando vanno bene le borse, bene tutto il settore bancario. Sì, infatti oggi è andato bene il settore bancario, ma non solo in Italia, direi in tutta Europa. Il sottoindice Stoxx 600 è salito dell'1,20% e ha messo appunto la miglior performance nel vecchio continente. Anche a Piazza Affari appunto si sono messe in evidenza alcune banche. Intesa San Paolo ad esempio ha vantato un progresso del 2%, è uno dei titoli che ha fatto meglio tra quelli a maggiore capitalizzazione, ma sono andate bene anche altre banche come ad esempio Unicredit più 0,77%, Ubi più 1,32%. Questo sul fronte delle banche, bene, anche visto che se ne è parlato fino adesso, e tra poco ne riparleremo di questo interessamento di Volkswagen per Alfa Romeo, peraltro smentito da Lingotto, bene anche Fiat, ma qua ha fatto bene tutto il settore, Leonora. Sì, guarda, oggi il settore auto è andato, diciamo, bene in tutta Europa, anche se sul finale ha frenato insieme a Wall Street, diciamo nella metà seduta e nel primo pomeriggio faceva sicuramente meglio, sul finale poi il sottoindice Stoxx 600 si è attestato poco sopra la parità, anche Fiat ha seguito un po' lo stesso andamento, diciamo che a metà pomeriggio i titoli del Lingotto facevano meglio, hanno chiuso in progresso dello 0,32%, sia seguendo la performance del comparto europeo, sia appunto sull'ipotesi rilanciata dalla stampa tedesca che Volkswagen si è interessata a rilevare Fiat, cioè a rilevare Alfa Romeo, il marchio di Fiat. Beh sì, sarebbe stato un po' tanto forse Fiat. Esatto, Alfa Romeo, il marchio di Fiat. E la notizia peraltro ha sospinto in alto soprattutto anche le azioni della Exor, cioè la scatola che ricordiamo controlla la fetta più importante di Fiat. I titoli hanno chiuso in progresso del 2,25%, ma a metà pomeriggio segnavano un progresso più consistente. Poi sì, si è un po' tutto sgonfiato, non solo insieme all'andamento di borsa, ma anche perché è arrivata, cioè, una smentita abbastanza secca da parte del Lingotto, che ha detto senza troppi giri di parole che Alfa Romeo non è in vendita. Sì. Exor un guadagno del 2,25%, tra l'altro il titolo migliore sul FTSE MIB. Ti chiedo conto dei due energetici brevemente che sono andati, i tuoi principali energetici sul listino italiano che sono andati in parallelo, più 0,57 per Eni, più 0,54 per Enel. Sì, Eni questa mattina in verità andava abbastanza, era abbastanza debole, seguendo diciamo le orme dei titoli petroliferi quotati a Wall Street, che venerdì erano andati abbastanza male. Poi l'apertura positiva di Wall Street e prima le indicazioni, ancora prima che aprisse, hanno dato in là una serie di ordini in acquisto, per cui per Eni è stata una diciamo seduta a due marce. Per quanto riguarda Enel è andata bene, semmai si può appuntare invece che l'altra multi utility quotata a Piazza Affari a 2A ha registrato un calo dello 0,18%. Perdona Eleonora, l'amministratore delegato dell'Enel, Fulvio Conti, ha detto no, che la quotazione di Green Power va avanti con l'obiettivo di chiudere entro ottobre, dice vogliamo raccogliere almeno 3 miliardi, questo a margine del sempre del meeting di Rimini, Comunione e Liberazione, e questo non ha avuto impatto sul titolo quindi? Sì, certo, c'è sempre una notizia positiva per Enel, che ha chiuso appunto con un progresso dello 0,5%. Ovviamente c'è l'ipotesi più volte confermata, ormai se ne parla da mesi, della quotazione della controllata, fa sempre bene al titolo, che appunto si è mosso in controtendenza invece rispetto alla 2A, debole sin un po' da questa mattina, che anche a causa di un report negativo da parte, cioè un report di Goldman Sachs in cui la banca d'affari ha rivisto al ribasso le stime per gli anni venturi. Bene, infine ti chiedo di Impregilo, molto bene oggi mi sembra di capire. Bene, anche se sul finale era più in evidenza questa mattina, i titoli hanno frenato sul finale e poi hanno chiuso appunto sulla parità rispetto ai prezzi di chiusura di venerdì a 2,03 euro. Comunque i titoli nel corso della giornata hanno avuto modo di mettersi sotto i riflettori, visto che venerdì scorso si è chiuso il bando di gara per la costruzione del collegamento viario tra Egitto e Tunisia attraverso la Libia. È un contratto da 3 miliardi di dollari e Impregilo si è presentata come capofila di un consorzio di cui fanno parte anche altre aziende italiane, tra cui la stessa Astaldi. E diciamo è stato comunque anche il momento in cui gli analisti hanno acceso i riflettori sull'azienda. Ad esempio gli esperti di UBS hanno rivisto al rialzo anche il proprio giudizio e hanno espresso diciamo delle parole positive sulla società. Bene, grazie anche per oggi ai colleghi di Radio Coro Il Sole 24 Ore e ad Eleonora Micheli in particolare. Eleonora, buonasera. Buona serata a tutti. Allora, un quadro finale di giornata di Exor, si è detto, l'automatica in guadagno di oltre 2 punti percentuali, così come Intesa San Paolo, i tangimenti poco meno, un più 1,91%, Telecom Italia dell'1,38%, dell'1,32% UBI Banca, dell'1,25% Geox, Saipem, Snam, Rete Gas e Mediaset dell'1,21%, sopra il punto percentuale Azimut, Parmalat, appena sotto la Popolare di Milano, Unicredit in guadagno dello 0,7%, così come Unipol dello 0,67% circa come il Monte dei Paschi, Eni in guadagno di 0,5 percentuale così come Enel e Mediolanum, appena sotto Buzzi, Unicem, Bulgari e Atlantia, Fiat su dello 0,32% come si diceva, dello 0,31% Campari, Mediobanca e Prismian dello 0,23%, dello 0,17% il Banco Popolare, Setti Macro Electronics, Finmeccanica e Luxottica, Eterna appena sopra la parità insieme a Generali. Perfetto pareggio per Impregilo, come si diceva, A2A giù dello 0,18%, Pirelli dello 0,19%, Fondiaria Assai dello 0,26%, Tenaris dello 0,29%, dello 0,39% Autogrill e Ansaldo di 0,5 percentuale con l'euro che quota 1,26,7 contro dollaro. Perché secondo alcune indiscrezioni di questa mattina la casa tedesca sarebbe interessata a rilevare Alfa Romeo se quest'ultima decidesse di metterla sul mercato nel pomeriggio. Secca smentita di Fiat, Alfa Romeo non è in vendita. Nella doppia veste di esperto di vicende Fiat e in questo periodo a far da corrispondente per Il Sole 24 Ore da Francoforte e quindi perfetto per questo argomento, saluto Andrea Malan. Andrea, buonasera. Buonasera a tutti. Allora, non è una novità l'interesse di Volkswagen per Alfa? No, dei colloqui c'erano stati già qualche anno fa, ne aveva scritto il nostro giornale, e non erano andati a buon fine. soprattutto per una questione di prezzo, oltre che di altre condizioni. C'era già Marchionne al Lingotto. Poi è rispuntato l'anno scorso questo interesse di Volkswagen e probabilmente adesso, così come ha detto la stessa Fiat, ma come riferisce anche Automotive News, la Fiat è meno intenzionata a vendere l'Alfa Romeo e tenta, in base al concetto che ha elaborato insieme a Chrysler, di rilanciarla sfruttando al meglio l'alleanza con il socio americano. In sostanza l'idea di Marchionne adesso è di produrre le piccole Alfa, diciamo la Mito e la Giulietta in Italia, e progettare e forse anche produrre le grandi Alfa negli Stati Uniti, utilizzando quindi le sinergie con Chrysler, riducendo i costi e trovando anche uno sbocco sul mercato americano. Il piano presentato da Marchionne quest'anno è molto ambizioso e prevede di portare l'Alfa a 500.000 vetture vendute l'anno contro poco più di 100.000 adesso. Gli analisti sono abbastanza scettici sul numero, che dipenderà tra l'altro più che dagli Stati Uniti dal togliere vendite ai concorrenti tedeschi, proprio prima fra tutte l'Audi della Volkswagen, quindi sicuramente la concorrenza è difficile e questa ultima osservazione che ho fatto mostra che d'altra parte anche un'integrazione eventuale dell'Alfa Romeo all'interno del gruppo Volkswagen, se effettivamente i tedeschi decidessero di acquistarla, non sarebbe proprio facilissima. Detto ciò, qual è il vero interesse di Volkswagen per un marchio come Alfa e per auto come quelle prodotte da Alfa? Dunque, diciamo che Audi nel corso degli anni si è evoluta da un marchio forse un po' più sportivo a un marchio che punta adesso a fare pienamente concorrenza a BMW e Mercedes, quindi che unisce la componente del lusso, diciamo del premium come si dice adesso, a quella della sportività e dell'avanguardia tecnica, ricordiamo le quattro ruote motrici eccetera. Quindi può darsi che ci sia spazio in una scuderia Volkswagen, peraltro già enorme, comprendente una decina di marchi, per un marchio invece più prettamente sportivo, magari con vetture non grosse come quelle dell'Audi. Questo è un po' l'idea. È ovvio che tendenzialmente nessuno attualmente gestisce una scuderia di marchi ampia come quella della Volkswagen, è un esercizio molto difficile che peraltro almeno finora la Volkswagen ha dimostrato di saper fare molto bene, tranne che in un caso, cioè quello della spagnola Seat, che è sempre in difficoltà, che è il marchio che rimane in rosso, e che non a caso tra l'altro la Volkswagen ha tentato di riorganizzare qualche anno fa vendendola tra virgolette come una rivale dell'Alfa Romeo, quindi con un carattere un po' più sportivo. A questo punto, visto che il tentativo non è riuscito, potrebbero dire i tedeschi: beh, compriamoci l'originale e cerchiamo di sfruttarla al meglio. Teniamo conto che nonostante i tentativi di rilancio degli ultimi anni nell'ambito del gruppo Fiat, Alfa Romeo continua a perdere una cifra che la Fiat non rivela, ma che dagli analisti è stimata fra i 200 e i 400 milioni di euro l'anno. Che è una cifra notevole. Grazie ad Andrea Malan per questi aggiornamenti. Comunque per adesso fermi siamo, perché il Lingotto ha smentito. Chissà mai che in un futuro, se le cose non vadano bene per Alfa, insomma, non ci sia un compratore pronto. Grazie Andrea Malan, buonasera. Arrivederci. Allora, manca poco alla chiusura del programma, noi chiudiamo toccando il tema dell'economia un pochino più in generale, ossia le parole dell'amministratore delegato di Intesa San Paolo, del consigliere delegato di Intesa San Paolo, Corrado Passera, ieri al meeting di Rimini, una sorta di sferzata alla politica. Poi verremo invece alla voce sul credito alle piccole e medie imprese, una sorta di sferzata alla politica. Il vero obiettivo, ha detto ieri dal palco, è la crescita. Innanzitutto crescere si deve, cioè noi non possiamo non crescere o continuare a crescere poco come stiamo crescendo, perché con questo livello di crescita non si crea occupazione, e l'occupazione, il lavoro, la speranza di un impiego è il tema numero uno. Magari abbiamo una disoccupazione un po' più bassa di altri paesi, ma se andiamo a guardare il tasso di occupazione, cioè il numero di persone che hanno un lavoro vero, troviamo un numero troppo basso. Dobbiamo crescere perché c'è povertà, non soltanto nei paesi emergenti, ma anche a casa nostra e in taluni settori cresce non poco, perché se non cresciamo rischiamo di mettere a rischio alcune conquiste, che sono conquiste della nostra civiltà ma non sono acquisite. Il welfare in tutte le sue manifestazioni, dalla sanità all'istruzione, all'assistenza, alla previdenza, non sono conquiste definitive se non c'è un sufficiente livello di crescita che le finanzi. E ha ragione l'ascoltatore che fedelmente ci segue dall'inizio della trasmissione, che ci dice: abbiamo parlato di percentuali nella classifica del Financial Times, ma non abbiamo detto Passera e Profumo quanto guadagnano. Allora, la busta paga del primo è 5,29 milioni di euro, quella del secondo è di 6 milioni di euro. E veniamo al rapporto tra banche e imprese. Questo ragionamento forse un pochino farà discutere. Ascoltiamo. Adesso abbiamo una coda difficile della crisi, perché quando le aziende sono ancora più rese pesanti dalla lunghezza della crisi, quando le risorse e le riserve in taluni casi si sono esaurite, è il momento più delicato, in cui è molto, molto importante per la banca capire quali sono le aziende che hanno la possibilità di passare attraverso e che quindi devono essere in ogni caso appoggiate per poter essere pronti nella fase successiva della crescita, e quali invece queste caratteristiche non hanno. Avremo da gestire insieme Basilea 3. Qui c'è uno spazio enorme. Io qui credo che ci sia la possibilità di migliorare, di far crescere il rapporto tra la banca e la piccola e media impresa in maniera clamorosa, perché sono ancora una percentuale minima quella delle aziende che portano conti comprensibili, analizzabili per settore di attività, per prodotto, che hanno piani, perché alla fine il credito si dà sulla base dei risultati, dei piani e delle garanzie. Se i risultati inevitabilmente non possono che essere deboli dopo un periodo di crisi così violenta, almeno ci devono essere dei piani credibili che possano compensare, perché poi diventa impossibile da un punto di vista normativo, nella misura in cui non c'è il risultato e non c'è il piano, compensare questa situazione solo con garanzie, perché ci deve essere l'azienda vitale. Ecco, quello dell'imparare o dell'aiutarci a vicenda a produrre progetti, piani credibili sulla base delle quali poter basare valutazioni di credito che non avrebbero le caratteristiche per essere bancabili, che è la stragrande maggioranza dei casi in talune situazioni, in taluni distretti, in taluni settori, è la sfida da cogliere insieme. Infine, all'ascoltatore che ci chiede che fine hanno fatto i Tremonti Bond, ne hanno usufruito il Monte dei Paschi, la Popolare di Milano, il Banco Popolare, il Credito Valtellinese, ma non le due principali banche italiane, Intesa appunto e Unicredit. È tutto anche per questa puntata di Focus Economia. Un ringraziamento a Mauro Del Corno in redazione, a Roberto Scaltritti in regia, la linea al giornale radio. Ci risentiamo domani dopo il GR delle 17. Radio 24. La passione si sente.